Con Federico Pedroni della Settimana Internazionale della Critica per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare anche un po' un bilancio dell'annata cinematografica rispetto a dove stia andando il cinema e alla fruizione della sala. Auguri Federico. Auguri a tutti voi, ciao Federico, ciao. La faccio come premessa la situazione sulla sala perché mi sono reso conto quando ho dovuto fare un ragionamento sui 5 film appunto usciti in sala durante il 23 che ho fatto per voi adesso che ne chiacchieriamo per Cineforum sul consueto sondaggio relazionale dell'anno, mi sono reso conto che i 5 film che ho scelto per le uscite sala 2023 sono 5 film del 2022. È un caso sicuramente perché sono state delle folgorazioni che poi hanno trovato spazio nelle nostre sale solo durante quest'anno, però comincia ad essere un fattore soprattutto per cinema d'autore, mentre magari le grandi produzioni escono in tutto il mondo, eccetera, eccetera, ma sul cinema d'autore, sul cinema un po' di ricerca, ormai la difficoltà di trovare uno spazio nelle sale obbliga degli slittamenti temporali che diventano anche degli slittamenti di senso, cioè ormai facciamo praticamente il 23 diventa l'anno in cui molte delle grandi chicche scovate nei festival principali dell'anno precedente riescono appunto a uscire a distanza ormai di molti mesi, se non addirittura di un anno, e questo sotto certi aspetti può essere preoccupante, e questo dipende appunto anche dalla sempre maggiore difficoltà che per certo cinema rappresenta trovare uno spazio adeguato nelle sale. Detto questo, per fortuna che escono, quindi finché escono c'è ancora da essere contenti, però il ragionamento sul futuro del cinema d'autore in sala è un ragionamento in via continua di costruzione e di ricostruzione. Insomma, questo un pochino può essere preoccupante. Allora, il quinto film che ho scelto, che appunto era stato presentato in anteprima alla Kenzen del Cannes 2002, è il nuovo film di Nielsen Love, che si chiama Un bel mattino, ed è un film di una regista che io ho sempre amato molto, che torna, diciamo, ai suoi livelli più alti, con cinema molto riconoscibile, fatto di relazioni umane, di piccole cose, di piccoli gesti, quotidiano, una donna sola che vive con la figlia e che deve affrontare la malattia del padre, che trova con un vecchio amico una relazione che non si aspettava, un film umanista, dominato da un'interpretazione di quella che è probabilmente la più grande attrice del cinema europeo contemporaneo, che è Lea Seydoux, che ad esempio è protagonista di uno dei film che dirò l'anno prossimo e che però ho visto quest'anno, che è La Bête di Bertrand Bonello, che era a Venezia, però appunto è tutto slittato, quindi quest'anno Lea Seydoux la troviamo nel film di Nielsen Love, Un bel mattino. Quarto posto, sempre Cannes 2022, con un premio anche alla regia, è il nuovo film di Park Chan-wook, Decision to Live, che andiamo in Corea. È un film in cui appunto Park Chan-wook ha fatto tante cose anche in Occidente, torna invece a girare interamente un film in Corea. È un film molto misterioso, è una specie di Melò travestito da noir, travestito da qualcos'altro ancora, un film quasi inafferrabile con veramente una messa in scena straordinaria, un gioco linguistico, un gioco di non detto, un gioco sulla memoria, un gioco sul passato, davvero di un'eleganza formale anche sterminata, ecco, insomma, Park Chan-wook torna veramente a dei livelli altissimi ed è uno dei film più fascinosi e inclassificabili che abbia visto negli ultimi tempi, ecco. Terza posizione, siamo sempre a Cannes 2022, uno dei film più incredibili e sorprendenti e densi che io abbia visto negli ultimi tempi, che si chiama Lei e i suoi fratelli. Il regista si chiama Saïd Roustaï, è un film fluviale, dura 3 ore buone, una storia di famiglie e di soldi, una donna e 4 fratelli a loro modo disadattati e scansafatiche, un vecchio padre che sogna un riconoscimento familiare e per questo investe tutti i soldi della famiglia. È un film che incastra una narrazione e una scrittura pazzesca, un film appunto di 3 ore ricco di dialoghi, di scene madri, di litigate interminabili, ma è veramente il cinema iraniano al suo meglio, che riesce davvero a costruire un ragionamento sulla centralità e sulla sopraffazione della cultura maschile in Iran attraverso però una storia che non sfocia mai nel retorico e nel didascalico. È una saga familiare, appunto, con al centro ero un'unica donna contornata da uomini diversamente inetti e di cui lei si deve in qualche modo prendere cura, che è uno specchio di quella drammatica situazione che troppo spesso purtroppo dell'Iran arriva. È un film che chiaramente ha avuto dei problemi totali in patria, ma che andrebbe in qualche modo, non so come, recuperato. L'ha distribuito ai Wonder in Italia ed è veramente veramente un film sorprendente che non somiglia a niente. Se andiamo su al secondo gradino del podio, cominciamo a parlare spagnolo per il film di uno di quelli che è secondo me uno dei più grandi registi europei in senso assoluto, che è Rodrigo Sorogoyen. Siamo in Spagna, è il suo ultimo film. Asbestas è la storia di una coppia di sognatori francesi che vogliono rifugiarsi dalla campagna della Galizia per coltivare in maniera sostenibile la terra e che si scontra con gli interessi atavici della gente del luogo. Un film che è costruito come un giallo, con delle scene di una tensione fatte di niente, ma che fanno trattenere il respiro allo spettatore, interpretato meravigliosamente sia dai due protagonisti francesi, che sono Marina Foïs e Denis Mécochet, sia da il gruppo appunto dei locali galiziani minacciosi e che si sentono invasi da questa presenza aliena. Ecco, un film incredibile che appunto fa della tensione basata sul nulla e senza anche qua volere spiegare le ragioni dell'una e dell'altra parte, ma proprio è uno scontro tra culture e mondi che ha la tensione di un thriller hitchcockiano. Davvero un film sorprendentissimo e anche questo da recuperare a tutti i modi. E per finire, il film per me dell'anno uscito in sala, anche se uscito in sala è una parola grossa, perché è un film di 4 ore, quindi è un film che grazie a Dio è stato distribuito, grazie a una piccola distribuzione che è riuscita a farlo andare in sala, ed è Exit Media, quindi la nomino anche per dare merito a operazione assolutamente rischiosissima e fuori dai canoni, è il modo anche per celebrare quello che secondo me è un collettivo dove si fa il cinema più libero e più affascinante degli ultimi anni. Il collettivo si chiama il Pampero Cine, è un collettivo argentino che aveva prodotto tutti i film tipo La Flor, serie di film veramente strani e belli, lunghissimi, ma che non rinunciano mai al cinema. In questo caso quest'anno è uscito un film che si chiama Trenque la Ken ed è diretto da Laura Citarella, che è un appunto membro di questo collettivo argentino, ed è un film sulla sparizione di una botanica in una zona rurale dell'Argentina e poi della ricerca che vari personaggi fanno di questa donna scomparsa. Ma come in tutti appunto i film del Pampero Cine, soprattutto di Mariano Dinas, che appunto forse è il regista più conosciuto del gruppo, è un continuo gioco e riflessione sulle modalità narrative, sulle potenzialità espressive del cinema. Ecco, un cinema di ricerca sperimentale che però ha una fiducia nella capacità del racconto che a me commuove sempre, cioè mette al centro sempre il dispositivo narrativo, mette al centro sempre delle figure interessanti e che non si autocompiacciono, cioè un cinema con le sue durate, ma che non lascia spazio mai a nessuna stanchezza, a nessun autocompiacimento, a nessun gioco puramente cinefilo, ma che veramente fa immergere in uno stato di cinema liquido che trovo forse il più affascinante appunto dell'intera panorama contemporaneo. Mi sono sorpreso da solo, che penso che per la prima volta da tanti anni che facciamo questa chiacchierata di fine anno non c'è nessun film anglofono che io ho messo, ed è forse un segnale, almeno per me lo è, che forse adesso dall'America arrivano cose meno interessanti rispetto ad altre parti del mondo. È rimasto fuori un film inglese che ho molto amato, che è After Sun, che in Italia è uscito fugacemente in sala ma poi è apparso su Mubi. È un esordio di una regista scozzese, si chiama Charlotte Wells, forse il mio sesto posto dell'anno. Ma appunto ho notato, mi dico da solo, che è strano che il cinema anglofono abbia perso forse una sua centralità nella ricerca di qualcosa di nuovo e di interessante, ecco, non di una ricerca puramente formale, ma di una ricerca di nuove immagini e nuovi modi narrativi. Ci sentiremo nel 2024, auguri Federico. Grazie, un abbraccio a tutti e buon anno a tutti, ciao.